donna bella, io non mi vendo a prezzo di moneta. Bella giurata fede, debbo tradir, ne voglio altra merecede, ne voglio altra merecede, questa ora io la attendevo. Già mi struggeo l'amor della diva, ma poc'anzi ti mirai, qual non ti vidi mai. Quel tuo pianto era la guardo che odio in me d'arde già.